Allora, venerdì 27 luglio. I titoli, c'è chi sceglie la situazione economica e finanziaria sempre difficile, anche se ieri Mario Draghi ha parlato e le borse ne hanno beneficiato. E allora, scudo di Draghi, giù lo spread e vola la borsa, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. E anche Repubblica, pronti a tutto, salveremo l'euro, queste le parole del presidente della BCE. Il Messaggero: Draghi fa volare le borse. Poi la vicenda Ilva, la richiesta di chiusura degli impianti per ordinanza di un giudice. Corriere della Sera: il giudice blocca l'Ilva di Taranto. Il Manifesto: cambiamo aria, inquinamento dettato da logica del profitto. Il GIP di Taranto ordina il sequestro dell'area calda dell'Ilva e l'arresto di 8 dirigenti. L'Unità: Taranto non deve chiudere, questo è il titolo di apertura. E il Fatto Quotidiano apre su questo: Taranto, lavoro o morte. Il Fatto Quotidiano non apre sulla notizia con cui apre invece molti giornali, vale a dire la morte ieri improvvisa del consigliere del Quirinale Loris D'Ambrosio, quello che era finito nelle intercettazioni. E il Fatto Quotidiano è stato il giornale che più ha insistito su questa inchiesta, la trattativa Stato-mafia, le intercettazioni di Loris D'Ambrosio con l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino. Ieri la morte improvvisa per infarto, e guardate che ci sono molti titoli di giornali molto espliciti. Allora La Stampa apre su questo: muore il consigliere del Colle, Napolitano, angoscia e rabbia. Libero: Napolitano, PM, assassini. In realtà questa frase non l'ha mai detta il capo dello Stato, ma Libero sintetizza così. Il Giornale: condannato a morte, e c'è la foto di Loris D'Ambrosio. Anche Avvenire: una morte che accusa. Vedremo le polemiche su questo. Voglio partire dalla barzelletta che tutti ormai conoscete, quella del taglio delle province. Cari ascoltatori, che dire? Vi segnalo due articoli, uno sul Sole 24 Ore, pagina 12. Guardate il titolo, Verrebbe a dire: ma va, Parlamento incagliato sulle monoprovincie. Ne avevamo già fatto cenno ieri. Niente da fare, scrive Gianni Trovati. Come in tutte le manovre, il decreto sulla revisione della spesa si incaglia sul tema eterno delle province. A impegnare il Senato fino a seduta notturna di ieri è stato ancora una volta il tema degli accorpamenti tra gli enti di area vasta. Tra i temi sul tappeto, il salvataggio delle province che, in caso di scomparsa, farebbero coincidere la geografia dell'ente superstite con quello della regione di appartenenza. Cioè, spieghiamola, sono quelle regioni, e sono Umbria, Molise, e poi ce n'è un'altra che non ricordo, credo Basilicata, dove ci sono due province, e siccome una delle due non rispecchia i criteri stabiliti dal governo, verrebbe accorpata, per cui ci sarebbe una provincia nella regione, e questo non si sa per quali misteriosi motivi non vada bene. Perché si dice, sì, ecco, per esempio in Molise, il Molise coinciderebbe con la provincia di Campobasso, l'Umbria sarebbe sovrapponibile a quella di Perugia, in Basilicata sarebbe sovrapponibile a quella di Potenza, un'unica provincia. Tutti noi normali cittadini diciamo: e che problema c'è se c'è una sola provincia all'interno di una regione? Pare che questo sia un problema, e quindi è stato chiesto un emendamento bipartisan PDL e PD a dire: è vero, una di queste due province, di queste tre regioni, non rispecchia i criteri stabiliti dal governo, ma vanno salvate, perché una sola provincia non si può fare in un'unica regione, altrimenti c'è una sovrapponibilità, una coincidenza tra regione e provincia. Ripeto, sono misteri della fede, bisogna prenderla così. In ogni caso, anche sul Corriere della Sera c'è questa storia raccontata, Lorenzo Salvi, a pagina 11, province, caccia alle deroghe, PD e PDL si alleano per salvarne tre, mobilitati per Terni, Isernia e Matera. In ogni regione ci devono essere almeno due province. Anche qui è un mistero della fede, ma è così. Cari italiani, ci vogliono due province per ogni regione. Non fatevi troppe domande, prendetela come un dogma e andiamo avanti. Ne parleremo, tra l'altro c'è il presidente della regione Molise con noi, il governatore Iorio, alle 8:20, gli chiederemo conto anche su questo, se effettivamente è così impossibile sopravvivere per una regione con una sola provincia e ce ne vogliono almeno due. La seconda segnalazione che vi voglio dare, prima della pubblicità, è un'intervista al premier Mario Monti. Sono poche le interviste che il premier finora ha fatto, ne ha realizzata una che trovate su 7, che è l'inserto del Corriere della Sera. È una bella intervista perché per la prima volta Mario Monti non parla solo, praticamente parla quasi nulla della situazione economica, finanziaria, politica, ma è un'intervista rilasciata a Ferruccio Pinotti in cui racconta il suo tratto umano, personale, quello inedito, insomma, racconta al Mario Monti che non molti conosco, anzi quasi nessuno conosce prima di questa intervista. Per esempio, sono 6 pagine di intervista, come mi descriverei col mio tratto principale? Sono una persona riflessiva e non impulsiva, mentre la debolezza, mi dicono che nei rapporti umani sembro gelido, il fatto è che comunque sono molto timido, e poi un altro difetto è che ho un umore un po' instabile. Se non avessi fatto l'economista, guardi, non ho vocazioni giovanili, non avessi fatto il professore universitario, non so dirle cosa avrei fatto. Qual è la caratteristica che predilige in un uomo? Dice l'affidabilità, risponde Monti, e anche in una donna. E poi qua si entra nelle vicende personali. Le posso chiedere se ricorda il suo primo amore, presidente? Ma certo che può chiedermelo. La risposta è sì, lo ricordo. Sono certo che non vorrà spingersi oltre, vero? Chiede lui, Monti, questa volta a Ferruccio Pinotti che lo intervista. Poi il mio sogno ricorrente è un sogno strano che mi provoca un po' di trauma. Sogno di arrivare in ritardo a tenere la mia lezione all'Università Torino, a causa di scioperi ferroviari o manifestazioni che bloccano i binari. Più che un sogno, a volte è anche un po' una realtà dell'Italia, verrebbe da commentare ironicamente. Poi sentite ancora Mario Monti: quale sarebbe per me la più grande disgrazia? Perdere il senno e non accorgermene, come avviene con l'Alzheimer. La mia materia preferita a scuola, storia e filosofia, la città prediletta Venezia, il colore l'azzurro, il fiore che più mi piace è il tulipano, bello e carnoso. Cosa beve più volentieri, devo proprio dirlo? Il gin tonic. Ah, capito, Mario Monti è il gin tonic e Fabio Cantadori in regia approva. Il piatto preferito, spaghetti alle vongole, ma anche il sushi, la cantante è Mina, ho sempre adorato la sua voce. Non fischio sotto la doccia, ma fischierei volare se sapessi fischiare. E se dovessi cambiare qualcosa nel mio fisico, cambierei la gobba, come dice mia moglie. Vorrei stare più dritto. Il personaggio politico del passato più amato e detestato. Beh, se fossero personaggi attuali la lista potrebbe essere lunga. Qui si toglie un bel sassolino, avete capito? Monti ha detto se dovessi elencare i politici detestati, attualmente la lista sarebbe lunga. Scherzi a parte, sul passato direi che tra i più detestati c'è Hitler e Stalin, che se la giocano, ma Hitler prevale su tutto. Vorrei avere come qualità non essere così lento nello scrivere. Mi dicono che scrivo bene, ma sono lento. Vorrei morire senza accorgermene. E qual è, ecco, questa è bella domanda, qual è il suo stato attuale d'animo, presidente? Beh, mi chiedo come mai sono qui. Questa è la risposta di Mario Monti. Dopodiché, diciamo, conclude con una risposta più seria, legata, non che non siano serie le altre, ma più legata all'attualità. E che messaggio si sente di dare ai 30-40enni italiani che sono in grande difficoltà, presidente? Le risposte corrette, risponde Monti, l'Italia avrebbe dovuto darle 10-20 anni fa, gestendo in modo diverso la politica e la politica economica. De Gasperi diceva che il politico pensa alle prossime elezioni, l'uomo di Stato alle prossime generazioni. Io sottoscrivo, quindi ripete questa frase. Quindi la verità, purtroppo, conclude Monti, e purtroppo non è bella da dire, è che messaggi di speranza possono essere dati ai giovani che verranno tra qualche anno. Ma esiste un aspetto di generazione perduta, purtroppo. Si può cercare di ridurre al minimo i danni, trovare formule compensative di appoggio, ma più che attenuare il fenomeno con parole buone, credo che chi in qualche modo partecipa alle decisioni pubbliche debba guardare alla crudezza di questo fenomeno e dire facciamo il possibile per limitare i danni alla generazione perduta, ma soprattutto impegniamoci seriamente a non ripetere errori del passato e a non crearne altre di generazioni perdute. insomma, un Monti che alla fine di questa intervista con Ferruccio Pinotti certifica il fatto che esista una generazione perduta di 30-40 anni alle quali si possono dire belle parole, ma il dato di fatto, la crudezza, rimane. Questa generazione perduta ormai c'è. E allora eccoci alle 7:35 minuti. La situazione economica internazionale e europea, beh, ieri ha vissuto una giornata all'insegna di Mario Draghi. Mario Draghi è stato il protagonista, il presidente della BCE, ha lanciato un forte segnale, tanto che molti titoli italiani, molti giornali italiani titolano Draghi fa volare le borse, per esempio Il Messaggero, oppure anche Il Sole 24 Ore, lo scudo di Draghi, giù lo spread e vola la borsa. Cosa ha detto? Ha detto il presidente della BCE si è schierato a difesa dell'euro, un forte segnale lanciato dal presidente Draghi, che ha detto siamo pronti a tutto per salvare l'euro in Italia e Spagna, progressi sui conti, e subito i mercati si sono fermati, la caduta dei mercati si è fermata. Ci si potrebbe anche interrogare molto su questo, sul peso delle parole. Draghi pronti a tutto per l'euro. Così a pagina 3 Leonardo Maisano racconta: il compito nostro e faremo il necessario. Questo è il messaggio di Mario Draghi, un poco meno diretto e molto più argomentato, partito ieri da Londra alle 10:30 ora di Greenwich, e si è abbattuto sui mercati in tutto il mondo nel volgere di qualche secondo. Il presidente della Banca Centrale Europea è stato netto abbastanza nel dare la certezza di un prossimo intervento della BCE per riequilibrare il gap che si è spalancato tra BTP bonus e Bund. E allora ha fatto capire Draghi che la dinamica degli spread rientra nel mandato di Francoforte se il margine del premio sul debito sovrano minaccia la funzionalità della politica monetaria, e se è nel mandato la BCE farà tutto il possibile che, vi assicuro, ha sottolineato il presidente dell'Istituto di Francoforte, è abbastanza per calmare i mercati. E racconta Maisano: non ci sono volute doti di socratica maieutica ieri per estrarre dalle labbra di Mario Draghi quanto da settimane si chiede e gli chiede il mondo. L'uscita è apparsa spontanea ed equilibrata da una lunga serie di considerazioni a margine, non ultima la convinzione che alla meta arriveranno tutti i paesi contemplati dai trattati, ovvero nessun Grexit, almeno per ora, cioè nessuna via d'uscita dall'euro per la Grecia. E subito la reazione anche in Italia politica è stata da parte di Mario Monti, che ieri ha concesso un'intervista anche a TGcom 24, ha detto bene le parole di Draghi, racconta Dino Pesole a pagina 7 del Sole 24 Ore. La soddisfazione da parte del governo di Mario Monti, che in serata appunto annuncia che l'obiettivo non è durare ma mettere la società italiana sulla strada della crescita che è lunga da percorrere. E dunque un Mario Monti che si è detto favorevolmente impressionato da queste parole di Mario Draghi. Per quel che riguarda invece la situazione economica in Italia, allora vi devo dare alcune notizie. Intanto tra poco parleremo anche della situazione dell'Ilva, dove c'è una situazione, poi ne parlerà anche Oscar Giannino alle 9 in punto, una situazione difficile anche di tensione sociale che si profila. Intanto però mi ha molto colpito questa notizia, per la quale, cari italiani, cittadini di alcune regioni che ora vi vado ad elencare, sappiate che siccome la sanità delle vostre regioni è in rosso, ma di certo non per colpa vostra che andate tranquillamente a lavorare tutti i giorni, dall'anno prossimo pagherete di più in termini di IRPEF, addizionale IRPEF, IRPEF più alta dal 2013 nelle 8 regioni in deficit per la sanità. Cioè funziona così: la sanità è in rosso in queste 8 regioni che avranno autorizzazione ad aumentare l'IRPEF, cioè a chiedere più tasse ai cittadini italiani, notoriamente coloro che hanno provocato il buco della sanità delle regioni, mica i politici delle regioni stesse. I tagli alla spesa pubblica hanno l'obiettivo dichiarato di evitare nuove tasse, ma nel decreto sulla spending review viene prevista la possibilità di anticipare di un anno, dal 2014 al 2013, l'aumento dallo 0,5 all'1,1% dell'addizionale IRPEF. Un emendamento che prevede le regioni Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Eccolo lì. Queste le 8 regioni che sono in rosso con i conti della sanità, l'ho letto dal Corriere della Sera, pagina 10, e dunque potranno aumentare l'IRPEF. Sanità in rosso per 8 regioni, IRPEF più cara dal prossimo anno. Pagina 10 di Repubblica, costerà 138 euro in più a testa. Così anche la stampa, l'IRPEF potrà salire nelle 8 regioni in disavanzo sanitario. Il Libero invece la mette in tema contro il PDL. PDL kamikaze, vuole alzare l'IRPEF perché è un emendamento anche del centrodestra. Tra l'altro, tra le regioni più in rosso c'è il Molise. Ripeto, avremo ospite il presidente della regione Iorio alle 8.20, quindi vedete tanti temi tra le province, due o una del Molise, il Molise che premia un dirigente che è in carcere, è uscita ieri la notizia sul Corriere della Sera, questa dell'IRPEF, cari cittadini, è così, tocca mettere mano al portafogli. Guardate, è una notizia questa che mi ha colpito, invece, che il Secolo XIX, secondo me, mette giustamente in prima pagina. È un caso emblematico, una piccola storia, se volete, che racconta però come in questo momento, dal punto di vista del denaro, denaro da recuperare, denaro che manca, insomma, è una storia emblematica. Ve la segnalo. In prima pagina del Secolo XIX, ex galeotto cercasi, meglio se calabrese. Questo è il titolo che trovate nell'articolo di Gianfranco Sansalone. La vicenda è questa, raccontata dal Secolo. È comparso su un web del periodico specializzato Subito, Offerte Lavoro Marche Pesaro Urbino, il 24 luglio, il seguente annuncio. Udite, udite, eh? Azienda seria e referenziata, cerca uomini decisi, di poche parole e prestanza fisica, possibilmente ex culturisti o ex galeotti, per recupero crediti in tutta Italia. Molto apprezzate origini meridionali, calabresi o siciliane. Si offre contratto e lauti compensi, inviare curriculum, eccetera, astenersi per di tempo, sede di lavoro, Pesaro, eccetera, eccetera, eccetera. Al che il giornalista del Secolo XIX, Gianfranco Sansalone, chiama e si finge un ex galeotto. Buongiorno, chiamo per il vostro annuncio. Guardi, mandi un curriculum con foto e poi verrà contattato. Ho letto che non ci sono problemi se uno ha avuto problemi con la giustizia, mi confermate? Assolutamente sì, il lavoro è quello di un normale addetto al recupero crediti, si va a casa delle persone, si chiede con diplomazia di pagare i conti alle aziende che ce lo chiedono. Ma a voi avete già qualcuno che fa questo lavoro, che possa insegnare? Certo, c'è uno staff, mi mandi il curriculum, stiamo ampliando la rete, il titolare si occupa di queste cose, io non so nulla. Al che Sansalone si svela, io invece sono un giornalista, perché cercate persone meridionali o che possibilmente siano state in galera? E qui la comunicazione cade, si interrompe, l'addetto che ha risposto di questa società mette giù e poi non risponde più al telefono. È una storia emblematica, ve la racconto così. Ex galeotto cercasi, meglio se calabrese, l'annuncio di una società di recupero crediti, requisiti, essere grossi, meridionali e possibilmente ex galeotti. Allora, i giornali si animano con la polemica, è subito deflagrata in quanto a polemica, in realtà un dramma, cioè la morte improvvisa per un infarto del consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, consigliere del Quirinale, colui che è finito in intercettazioni con l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino per la vicenda sulla trattativa Stato-mafia, l'inchiesta di Palermo. Ricordate le polemiche? Muore D'Ambrosio e il Colle accusa. C'è stata una nota durissima da parte di Napolitano, scritta di suo pugno, fanno sapere tutti i giornali, voluta proprio in prima persona, scritta da lui. La nota parla così: atroce è il mio rammarico per una campagna violenta e irresponsabile di insinuazioni e escogitazioni ingiuriose cui era stato di recente pubblicamente esposto, senza alcun rispetto per la sua storia e la sua sensibilità di magistrato intemerato che ha fatto onore all'amministratore della giustizia del nostro paese. Insomma, stroncato da un infarto, Loris D'Ambrosio e Napolitano dice vittima di ingiurie di questa campagna denigratoria. E molti giornali, la polemica è su questo, shock e cordoglio sul Corriere della Sera, pagina 13. Il PM Ingroia dice c'è dolore per la sua scomparsa, ma Giuliano Ferrara attacca. Ingroia è un assassino, ma la vicenda D'Ambrosio è un assassinio mediatico, così Giuliano Ferrara. Attilio Bolzoni va nella procura di Palermo, a pagina 4 di Repubblica, le reazioni nella procura bunker, noi abbiamo agito con coscienza, cerchiamo solo la verità. Il PM Ingroia dice: io apprezzavo D'Ambrosio, sono addolorato, abbiamo agito con coscienza. E poi lo stesso PM dice: il capo dello Stato parla di una irresponsabile campagna di insinuazione e ingiurie, noi quindi non siamo il bersaglio del presidente, ma chi ha strumentalizzato, semmai. Insomma, molte polemiche su questo. Devo dire, il Fatto Quotidiano non apre con questa vicenda, nonostante per giorni abbia battuto invece su questa inchiesta, trattativa Stato Mafia. La notizia viene messa a pagina 7, solamente mezza pagina. Muore D'Ambrosio, Napolitano dice colpa dei giornali. C'è da registrare su questo che un'intervista al vicepresidente del CSM, Vietti, intervistato da Massimo Martinelli sul Messaggero a pagina 3, dice: io mi ero sentito con lui proprio alla mattina, ieri mattina, l'ho sentito al telefono, Loris D'Ambrosio, per sottoporgli una questione che doveva essere discussa. E ora, dice, la riforma delle intercettazioni, Vietti. Su questo anche il Giornale con Alessandro Sallusti, e poi con i titoli molto molto duri, addirittura Libero titola così: Napolitano, PM, assassini. Questa in prima pagina è una frase che assolutamente il capo dello Stato non ha mai pronunciato. Sulla vicenda trattativa Stato Mafia oggi c'è una sorta di botta e risposta, ovviamente così ideale, sul Foglio, sulla vicenda di Marina Berlusconi, che è stata chiamata dalla procura di Palermo per spiegare sui suoi conti, su alcuni conti da cui sono usciti dei soldi per andare a Marcello Dell'Utri. Ieri Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, ha scritto una lettera parlando di macchina del fango, di congiura. Il Foglio su questo dice: è vero, avanti così, ormai la chiameranno la trattativa Stato Berlusconi. Mentre c'è appunto una sorta di botta e risposta, c'è un durissimo intervento di Roberto Saviano, lo scrittore, in prima pagina di Repubblica. La cittadina Berlusconi, scrive Roberto Saviano, per lei e la sua famiglia, anche se in estremo ritardo, è giunto il momento di rispettare le istituzioni. Lei, che attraverso gli organi di informazione della sua famiglia contribuisce a creare un quadro inesistente della realtà, lei, col suo approccio familistico, ha fatto della comunicazione editoriale un'estensione delle stanze di casa sua, lei chiede rispetto per sé non come persona, ma in quanto istituzione. Provi a immaginare, signora Berlusconi, come si sono sentite le centinaia di persone attenzionate anche dai suoi dipendenti alla ricerca di particolari che potessero screditarle agli occhi dell'opinione pubblica, di scatti fotografici che dimostrassero quanto benessere vi fosse nelle vite dei nemici. Nell'obiettivo del suo gruppo, sempre solo l'intenzione di comunicare la sottile verità della comune sporcizia. Pensi al giudice Mesiano, a quanto gli siano costati un taglio di capelli e quei calzini turchesi. E poi la parola mafia, che giustamente le dà i brividi, poteva forse meritare altrettanta attenzione quando suo padre disse che la mafia era un problema creato da chi ne parlava. Insomma, un Roberto Saviano, non è la prima volta, ricordo un'intervista in cui Marina Berlusconi attaccò duramente Saviano, ora si toglie qualche sassolino dalla scarpa e conclude il suo intervento su Repubblica intitolato La cittadina Berlusconi. Lei sta lì a dirci la Costituzione, articolo 3, esiste ancora, poche righe di facile lettura e interpretazione, sta lì a dirci che ogni cittadino è uguale dinanzi alla legge, rispetti quindi la legge, cittadina Berlusconi, come tutti. Così Roberto Saviano. L'Ilva, l'avete sentito anche nel traffico, la situazione anche sociale rischia di aumentare in termini di tensione, ne parlerà alle 9 Oscar Giannino. Domenico Palmiotti racconta molto bene, in maniera dettagliata, tutta la vicenda, pagina 11. Ieri è arrivato il fulmine giudiziario, per qualcuno preannunciato, 8 persone agli arresti domiciliari, tra questi gli ex presidenti Emilio e Nicola Riva. 6 aree dello stabilimento per i quali è stato disposto il blocco delle lavorazioni e lo spegnimento degli impianti. Questo è stato deciso dal GIP di Taranto. Arresti e blocco e sequestro degli impianti dell'Ilva. Ovviamente si è subito scatenata la reazione. L'accusa ovviamente è che gli impianti causino morti e malattie, quindi un'accusa molto grave, che siano fonte di grave inquinamento. Questa è l'accusa della procura. I lavoratori dall'altra parte hanno iniziato il corteo a dire: il lavoro, toglierci il lavoro qui vuol dire ucciderci. Tra l'altro c'è questa frase molto emblematica su Repubblica da parte di un lavoratore a pagina 13. Cosa mangeranno i nostri figli? Aria pulita? E questo è un dilemma molto molto molto serio, molto importante, perché da un lato c'è il doveroso e giusto rispetto dell'ambiente, quindi la procura indaga su questo. Dall'altra parte ci sono 8.000 operai dell'Ilva che vivono di questo, loro e le loro famiglie. E quindi come muoversi? Qual è giusta? Qual è la posizione giusta da tenere? Per il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, intervistato da Repubblica, pagina 13, dice: la partita non è finita, ma alla domanda vada a spiegare agli operai, migliaia di operai che ora rischiano di non lavorare più. Ecco come risponde Vendola: loro sono le principali vittime di un'industrializzazione selvaggia. L'ex Italsider ha materializzato il più grande cimitero industriale d'Europa, ma trovo sacrosanta la mobilitazione operaia di queste ore. Finisce un'epoca, dice Vendola, quella in cui la salute della gente e la tutela ambientale avevano un peso marginale rispetto al dio profitto. Non è più così, è necessario trovare un equilibrio avanzato tra gli uni e gli altri. E l'altro, sta di fatto che la situazione attuale al giorno venerdì 27 luglio è una situazione in cui ci sono i blocchi degli impianti, 8 persone agli arresti e una situazione sociale in questo momento in cui di lavoro non ce n'è, con gli operai che al grido di fateci lavorare e blocchi anche delle strade dicono non si può chiudere. Questa è la posizione anche del ministro Clini dell'ambiente, che sarà ospite di Oscar Giannino alle 9 e fa anche un'intervista al Manifesto. Oggi dice: chiudere non ha senso. Ieri è stato intervistato anche dal Sole 24 Ore, in cui anticipava questa idea, cioè il governo si opporrà a questa chiusura. Il titolo anche dell'Unità di apertura, il titolo di apertura è: Taranto non deve chiudere, questo in prima pagina. Però staremo a vedere. Noi alle 8.30 invece parleremo dell'area C di Milano. Non vogliamo intanto in sé parlare dell'area C milanese, ma questa storia è emblematica di come vanno le cose in Italia, come racconta giustamente, secondo me, oggi Pierluigi Battista in prima pagina. La burocrazia che chiude il paese in garage. C'è sempre un'istanza superiore che annulla quella precedente, che a sua volta potrebbe essere smentita da un'altra destinata a essere superata. Il gioco dell'infinito, dei lacci che strozzano in Italia qualunque decisione. E così sono bastate le lagnanze di un'autorimessa per dare al Consiglio di Stato la possibilità di infliggere un colpo all'area C voluta dal Comune di Milano. Un ostacolo per bloccare un provvedimento che riguarda centinaia di migliaia di persone, nell'attesa che tra mesi e mesi si ripristinerà ciò che è stato stravolto. Scrive Battista: chi investirà in Italia nel groviglio di commi, stanze che alimentano la sensazione di paralisi, rendono palpabile il sentimento che in Italia tutto è impossibile, che non ci sarà una strada, un piano per il traffico, un semaforo, un parcheggio, un'infrastruttura, che non verranno imbrigliati in qualche anfratto burocratico per non riemergerne mai più o riemergerne esausti, sfibrati, depotenziati. Alla fine ci si aggrappa al destino, al cavillo, alla pazienza, si spera che si possa rientrare in gioco per un decreto della sorte, non per un diritto ristabilito. E si chiede ancora Battista: il provvedimento del sindaco era giusto? Ingiusto? Non era un granché? Ma questa è una valutazione politica che spetta agli elettori, invece gli elettori non potranno giudicarla perché un'istanza ha provvisoriamente bloccato il piano, e si sa che in Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio. Ora bisogna attendere permesse, autorizzazioni, scartoffie, TAR, corti, consigli, appelli, stanze locali, centrali, circoscrizionali. E insomma, questa è l'Italia. Milano e l'area C, la burocrazia può mandare il paese in garage. Racconta il giornale che c'è gente di Milano che fa la fila per andare a salutare e a ringraziare i titolari di questo garage che hanno bloccato l'area del traffico. Su questo anche si esercita Michele Serra con la Maca. Noi ne parleremo alle 8.30. Intanto zitti zitti di sport, zitti zitti silenziosi, ma Antonio Conte rischia una squalifica di un anno.